www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli destino degli internati non cambia mai e si chiama macellazione. Kappa e Drago visitano la voliera dei reietti. Poveretti, poveretti. Vedi, il troppo sbattimento li ha ridotti così. Vabbè, ma tutti ammassati in una voliera sporca e senza servizio. Drago, questa è una fabbrica di polli, non è un centro benessere, una spa. È un centro malessere, altro che. Questa voliera è come se fosse un manicomio, tu pensala così. Sai, uno di quei manicomi che c'erano prima della riforma Basaglia, quelli lì. Sì, perché invece dopo la riforma Basaglia. Comunque, Drago, qua dentro è un'allegra combricola di alcolisti, autistici, ex cantanti ora tossicomani, anoressiche, tacchini malati, semplici polli vecchi che la famiglia non ha più voglia di accudire, capito? Sì. Insomma, i reietti della fabbrica trovano ospitalità qui dentro. Sì, sì, però non sembra che regni la solidarietà, eh? Anzi, guarda, ognuno canta per conto suo, vedi? E poi soprattutto si beccano volentieri fra loro. Certo, insomma, la voliera dei reietti non ha niente a che fare con una bocciofila, Drago. Non è che sono qui a farsi compagnia. Dai, niente spuma da 100 qui. E nemmeno da 50. Niente spuma. Dice si sfuma una bibita analcolica generica composta di acqua gasata, zucchero e aromi. Esiste infatti spuma bianca, che è come gazzosa. Esiste poi spuma gialla, che è come cedrata. Spuma rossa, che è come ginger. E spuma marrona, che è come Coca-Cola, come chinotto, ma anche come spezi, che è la mia preferita. Che buona questa spezi spuma marrona. Leggere braune spuma marrone spezi. La spuma non esiste come bibita specifica. Nessuno ha mai visto degli spot televisivi che reclamizzano spuma. C'è la gazzosa, c'è la cedrata in TV, ma non la spuma. Con quel nome poetico che ricorda la Venere di Botticelli, la spuma è entrata nell'immaginario collettivo di tutti i bambini degli anni 60 e 70. E non solo dei bambini, ci sono anche gli anziani che come al solito sono emarginati. Sì, va bene, ma ora stia zitto, continuiamo. Ecco, vede, solo perché sono un anziano vengo messo a tacere. Bene, la spuma... La spuma, puoi dirlo forte, spuma, spuma. Mi ricordo, eravamo sul castro, nel 15 o giù di lì, e il sergente ci aveva ammucchiati tutti in una fottuta trincea. Eravamo io, Joe, Bill, Will, Sim e Jessica. Jessica? A un certo punto Sil, che aveva uno zaino speciale della Invicta, che gli avevano regalato con i punti della Walmart, tira fuori 6 bottigliette di spuma gialla. Il fatto è che con sergente eravamo in 7. Toccava quindi decidere chi non avrebbe avuto la sua spuma gialla per far sì che il sergente non rimanesse senza. Sapendo che Will e Bill avevano una zia in comune da parte di madre, quante probabilità aveva Jessica di finire senza la sua spuma gialla? Avete 5 secondi per dare una risposta. Risposta alla tua domanda, caro Joao, è 9. 9 giorni. Ma non aver paura, non ti macelleranno. Ormai sei un mucchietto d'ossa tutto tremolante. Ma guardati, io ho fame. Che senso ha toglierti la vita se non hai carne? Vedi, qua dentro noi siamo carne, non siamo animali. La parola animale contiene la parola anima, ma qui noi non abbiamo anima, qui siamo solo carne, hai capito? E se la carne scarseggia, ecco che non siamo più niente. Ed è meglio non essere niente che essere qualcuno, perché se sei qualcuno, qua dentro ti macellano. Ma io ho fame. Tu non guardare me, non pensare che io sono bello in carne. Quello non c'entra niente, la mia carne non conta. Adesso non posso spiegartelo, non potresti capire. Sei troppo giovane, devi farne ancora di gavetta prima di mettere su pancia come me e non correre i rischi di macellazione. La carriera del capo è dura, caro Joao. E comunque si parte sempre dalla condizione di prigionieri. Per cui, su con la vita. Vedrai che anche tu un giorno sarai un capo, proprio come me. Contento? Eh no. Prendere avanzi dal frigo, mettere acqua sul fuoco, scolare prima che siano scotti. Do you want spaghetti a mezzanotte? Do you want spaghetti a mezzanotte? A mezzanotte. La fabbrica di polli. Allora, qualche novità su Amoghele? Ho trovato, vedi, un testo in rete che cita più volte il nome di Amoghele vicino a quello di Gesù Cristo. Amoghele e Cristo? Erano coevi? Ma allora vuol dire che Amoghele a quest'ora è morto. È morto. Beh, Gesù però poi è risuscitato, sì. Quindi magari anche Amoghele, che era sempre con lui. Quindi... Sì, ma quindi chi era Amoghele? Il tredicesimo apostolo? Io so solo questo. Io esseng mo creste che moto, io a sesho go Amoghele Gesù creste, biale ca mo fo aosi. Che, passato in reverse, significa ben altro, e cioè... Zoao fom akelai, e cerco se yelego ma o scessa oi, o tome che cerco mnese oi. Amoghele Gesù creste, Drago, lo capisci? Ho capito. E qua sul sito www.greatcom.org/spirit/pedi. Vai anche tu. Oh, ecco, sì, ma non lo si vedi? Capisce niente. Amoghele Gesù creste. Sì, vabbè, ma tutto il resto... Non lo so, è Zuana, tu lo parli lo Zuana. No, non ho mai parlato lo Zuana. Non si trovano traduttori, quindi andrei per deduzione. Quindi Amoghele Gesù creste... Il mistero si annida in questa frase. Sì, perché non si riesce a capire se Amoghele è un personaggio che ha a che fare con il Vangelo... Oppure, che ne so, magari è uno tipo il reverendo Moon, capito? Venere Verstärkung. E Amoghele Gesù creste. Due frasi misteriose che sembrano nascondere grandi segreti. Capo, ma una è in tedesco, l'altra in Zuana. In Zuana? Che relazione potrà mai esserci, scusa? Non lo so, forse Georg Büchner, che è la fabbrica di polli, ha avuto a che fare con la traduzione in Zuana del Vangelo. Sì, vabbè, ma perché? Non capisco, cioè la traduzione in Zuana... Ma nemmeno io, Drago, non so. Quello che è certo è che Amoghele... Non è ancora stato identificato. E quindi, comandante capo, quindi dobbiamo aguzzare l'ingegno. Aguzzi l'ingegno, tenente Drago. Ma cosa sta facendo, tenente Drago? Aguzzo l'ingegno, comandante capo. La parola Amoghele ha cominciato a girare frequentemente da qualche giorno. Tutto farebbe pensare a un nome. Un nome africano. E in rete si trova associato a quello di Gesù Cristo. Come il codice da Vinci. Non lo so, io non ho letto il codice da Vinci. Ma mi sembra una storia tipo il codice da Vinci. Presto, tenente Drago! Scriviamo immediatamente un bestseller che divulghi al mondo intero la notizia che Gesù aveva un tredicesimo apostolo nero. Nero come Giuda in Jesus Christ Superstar. Un apostolo nero di nome Amoghele. Mi venisse un colpo se quello non è il vecchio Jessica. Che cosa succederà adesso? L'eresia di Amoghele prenderà piede diffondendosi a velocità di virus nella fabbrica di polli. E se così fosse, come reagirebbe Sua Santità? Amoghele! Non dimenticatevi di ritrovarvi puntuali domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo apostolico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it.